nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta. Non vi dirò che il multitasking è una fregatura, perché col coronavirus il multitasking è diventato un obbligo. Avete presente quante cose stiamo facendo contemporaneamente ora che siamo tappati in casa? Allora, prepariamo da mangiare e contemporaneamente stiamo attaccati al telefono per fare un po' di telefonate di consolazione alla mamma anziana che non possiamo incontrare perché appunto c'è il divieto di vedere gli anziani che possono essere i più fragili, oppure contemporaneamente diamo un'occhiata ai compiti del figlio e al nostro computer dal quale lavoriamo. Anch'io lavoro da casa, avrete capito anche dalla voce che forse non arriva perfetta come quando sono in studio ogni mattina con 24 Mattino, con Simone Spezia, raccontiamo l'Italia ai tempi del coronavirus. E torniamo questa domenica con Nessuna è perfetta per raccontare com'è che si vive questa dimensione molto strana in cui ci ritroviamo a non poter fare cose che consideravamo assolutamente normali. Ne dico una, so di parlare alle ascoltatrici che mi capiranno: andare dal parrucchiere. Beh, uno dirà, con tutte le tragedie in corso, proprio dal parrucchiere cominci. Ma era una cosa considerata normale a tutti i livelli, in tutte le classi sociali. Ci sono più parrucchieri nei quartieri meno ricchi perché una messa in piega ti fa stare bene. Ebbene, da parrucchiere non ci si va più. E tutte noi che non siamo bravissime con la spazzola e il phon, adesso abbiamo delle teste che un po' farebbero dire insomma che sembriamo un po' uscite dalle caverne, almeno io mi vedo così. Ma altro, la possibilità di socializzare con gli amici, no? La cena del sabato sera con gli amici a casa o in pizzeria o dove vi pare, non c'è più. Sto tirando fuori degli esempi di vita normale ai quali ci stiamo abituando a rinunciare, scoprendone tanti altri, riscoprendo per esempio la bellezza di cucinare tutti insieme in famiglia. Io che non mi provo più ai fornelli da tanto tempo, perché non sono... era una mia passione, poi una questione di lavoro mi ha allontanato da questa passione. Bene, adesso un po' la sto riscoprendo con esiti non ancora incoraggianti, ma non mollo. Ho fatto una carbonara l'altra sera che gridava vendetta, ma la rifarò perché non voglio mollare. E riscoprire, appunto, come mi dicono in tanti, la voglia di fare il pane in casa. Quando mai avremmo potuto fare il pane in casa? Prima dovevamo fare mille cose, portare i figli in piscina, andare noi in palestra, andare a trovare i genitori, tutte cose che non possiamo fare più, e si riscopre dell'altro. Insomma, stiamo tornando all'essenziale, lo si scopre anche dai consumi, che vedono crescere, era inevitabile che fosse così, i beni di conforto, no? La cioccolata, la crema alla cioccolata, sì, anche un buon bicchiere di vino. Ecco, tutto ciò non finirà presto, è bene che ci abituiamo all'idea che continuerà a lungo, ed io penso che sarà bello continuare a sentirci ogni domenica, ci proveremo, continueremo a farlo e continueremo a sentire i vostri messaggi all'828 12 12, messaggi che ci raccontano di voi, della vostra vita, di come state vivendo ora che il multitasking non è una fregatura, è un obbligo. A proposito dei messaggi, sentite alcuni dei messaggi vocali che ci sono arrivati in questi giorni. Cara Maria, la faccia del multitasking in questi giorni sembra essersi moltiplicato, sinceramente. Costretta a casa dall'azienda per ovvie ragioni, mi ritrovo a dover rispondere a centinaia di mail di lavoro, allo stesso tempo dover cucinare, aiutare i miei figli che fanno le lezioni online e compiti, e il tutto con mio marito accanto H24. Come ne esco? Beh, avete ascoltato il WhatsApp di questo ascoltatore che di questa ascoltatrice che appunto conferma che il multitasking è obbligatorio ai tempi del coronavirus. Ne parleremo in tutta la puntata. Sentirete anche come ritagliarvi un po' di tempo pure per voi tra i compiti, i figli e il telelavoro. Sentiamo quest'altro. Sto leggendo l'intervista al Papa rilasciata oggi e credo abbia ragione. Sono un Papa confesso non troppo credente, e perché non approfittare di questo momento difficile per dedicare più tempo ai nostri familiari, agli affetti e alla nostra vita quotidiana, e perché anche un po' a noi stessi. Sono d'accordo, sono proprio d'accordo con questo papà e credo che sia il momento di vedere dentro di noi e di dare importanza alle cose che contano. Io credo che il coronavirus ci stia facendo rivedere la gerarchia delle nostre priorità. Prima erano importanti cose che ora che non possiamo farle, beh, le valutiamo come meno importanti, non da rimuovere, ma insomma, se prima erano una top list, adesso le stiamo vedendo in una luce, in una dimensione diversa. E quindi sarà particolarmente interessante sentire come vive questa stagione chi alla filosofia e alla psicanalisi dedica da tempo i suoi studi e i suoi interessi. Buona domenica al professor Umberto Galimberti, filosofo, psicanalista, accademico italiano e collaboratore da moltissimi anni della Repubblica. Beh, professore, la prima cosa che le vorrei chiedere è come vive lei, che ha tanti strumenti, ha più strumenti di chiunque altro, perché la filosofia, la conoscenza in questi casi aiuta. Come lo vive lei? Questa dimensione del coronavirus a casa? La vivo con la partecipazione di una conferenza generalizzata che riguarda con tutta probabilità, anzi senza nessuna probabilità, la condizione attuale in cui la gente si trova, mentre per quanto riguarda la mia situazione personale sono in casa e studio e scrivo. Quindi è una costrizione quella dell'essere chiuso in casa, che però nel suo caso è anche produttiva perché sta scrivendo un nuovo libro. E questo è... Poniamo... Non è una costruzione perché è il mio stile di vita, insomma, ho passato la vita in casa, ho scritto 22 libri non a casa e non si possono scrivere se non stando sempre in casa. E vivere in compagnia dei pensieri, i quali non li produciamo noi ma vengono da soli. E allora bisogna accudirli, noi non pensiamo, siamo chiamati a pensare. Questa è un po' la condizione dei filosofi. Ecco, la condizione di chi filosofo non è, almeno negli ultimi decenni invece, è stata quella di pensare il meno possibile, no, professore? Correre, agitarsi, avere sempre un micro obiettivo, riempirsi la vita anche di cose che ora nella nuova gerarchia che è imposta anche da questa situazione ci sembrano forse meno indispensabili di quanto non le considerassimo prima. Cosa possiamo imparare da questa condizione? Da questa condizione possiamo imparare che forse nel nostro darci da fare abbiamo dimenticato noi stessi. Viviamo un po' come degli automi telecomandati dall'apparato, dalla tecnica, dal consumo, dallo stile di vita che ci è stato imposto dalla nostra organizzazione sociale, chi siamo noi propriamente, veramente non lo sappiamo, addirittura scappiamo da noi come dal peggior nemico, perché quando si smette di lavorare e inizia quel sabato e domenica che si chiama weekend, che cosa fa la gente? Pensa a se stessa, no, si distrae, va a fare il weekend. La distrazione, la distanza da sé, il distrarsi proprio, il non avere a che fare con se stessi. Bene, questa condizione forse abbiamo l'occasione di cominciare a pensare se ne siamo capaci, cominciamo a interiorizzare, cominciamo a conoscere noi stessi, a conoscere quelli che convivono con noi, che non sono dei semplici strumenti o delle risposte alle nostre aspettative, ma sono degli esseri che a loro volta sarebbe bene avere con loro a che fare, non solo per chiedere ai figli come sono andati a scuola, ma anche per incominciare a parlare con loro, cosa che di solito non avviene. One Express, il pallet espresso, vi presenta Nessuna è perfetta. Buona domenica al professor Umberto Galimberti, filosofo, psicanalista, accademico italiano e collaboratore da moltissimi anni della Repubblica. È proprio il parlare che certe volte, no, risulta faticoso agli umani. Lei immagini ora una famiglia che sta chiusa tutto il giorno insieme in una casa, potrebbe avere quasi la tentazione di rinchiudersi ciascuno, chi in uno stanzino, chi in una camera da letto, chi nel bagno, e non vedersi. E invece fare la fatica di parlare può dare proprio un cambiamento anche alle nostre vite. Perché è così faticoso parlarci, professore? Solo il fatto che lei parli di fatica sta a significare che non parliamo mai tra di noi, se non per le cose utili, per le cose funzionali, mai per sapere chi sei e perché vivi qui con me. Quella struttura della relazione tra padri e figli, tra moglie e mariti, questa condizione di conoscenza reciproca è quello che da tempo noi abbiamo dimenticato e non pratichiamo. E non praticando finiamo con l'essere strani l'uno all'altro, anche se viviamo nella ristrettezza di un appartamento. Allora questa condizione attuale ci consente di superare questa estraneità, posto che rimanga in noi ancora un seme di curiosità per sapere con chi viviamo. La condizione del coronavirus ha anche effetti di paura per la salute nostra e la salute dei nostri cari, paura per quel che succederà dopo, l'incertezza di un lavoro che magari non ci sarà più per alcuni tra noi. Ecco, rispetto alla paura, ed è una paura diversa da quelle che conoscevamo prima, quali strumenti possiamo usare, se possiamo fare appello appunto alla sua forma di conoscenza, che è appunto quella del filosofo? Che cosa ci può aiutare? Ma innanzitutto io non la chiamerei paura, perché la paura è sempre un oggetto determinato. Se io vedo un incendio scappo, se vedo un cane vedo di ripararmi in qualche androne se il cane mi insegue, e quindi la paura è un ottimo elemento difensivo. Noi oggi non siamo in una condizione di paura, siamo in una condizione di angoscia. L'angoscia è caratterizzata dal fatto che non ha un oggetto determinato. L'angoscia può venire da qualsiasi parte, chiunque di noi è portatore potenziale di un virus, e quindi non si sa com'è e dov'è il nemico. Esattamente quello che succede con il terrorismo: non hai un nemico davanti, ti trovi nella condizione dell'imprevisto e dell'imprevedibile, e l'imprevedibile è stata la prima angoscia dell'umanità, che ha cercato di sopperirlo attraverso delle ricerche di nozione di causalità: questo accade a causa di questo, da cui poi è nata la scienza, che sono tutti tentativi anche riusciti di ridurre quella dimensione dell'imprevedibile che mette angoscia. Dall'angoscia, e l'angoscia è quella che noi verifichiamo nei bambini quando spegniamo la luce, loro sono ancora addormentati, si mettono a strillare perché? Perché perdono qualsiasi riferimento, orientamento nel mondo. Ecco, la nostra condizione è quella dell'angoscia. Si può uscire dall'angoscia? No. Non si esce finché non si accende la luce, finché non si esce dal tunnel, finché non finisce questa dimensione. E nell'angoscia dobbiamo permanere nella modalità di chi si trova in una condizione da cui non può difendersi. Purtroppo noi abbiamo una mentalità che per tutte le cose c'è un rimedio. Non è così, non è vero. Ci sono delle condizioni in cui bisogna avere la forza di resistere in una situazione angosciante da cui non ci si può difendere se non attraverso quelle precauzioni che però non ci esentono dall'ammalarci e dal morire. Però, professore, c'è anche una reazione, quella che per esempio gli italiani hanno avuto applaudendo dai balconi, dalle finestre, lo spirito di sacrificio e il grande servizio che medici, infermieri, portantini, tutti coloro i quali lavorano in ospedale stanno rendendo al paese. Oppure mettersi a cantare, a suonare dai balconi, sono tutte cose che ci stanno copiando. In Germania cantano dai balconi Bella Ciao e giorni fa in Francia anche loro si sono messi ad applaudire alle finestre, ai balconi, i loro medici, i loro infermieri. Sono reazioni umane, è un modo di esorcizzare, è un modo di far sentire la propria vicinanza a chi sta lavorando per noi? È un po' ambivalente questo comportamento. Se si applaude, si canta, si battono le mani, si accendono le luci durante la notte, ci si richiama da balcone a balcone, da finestra a finestra, per sostenere l'opera dei medici che sono i veri sacrificati, perché anche loro si infettano e anche loro rischiano la morte, allora tutto questo è buono. Se invece tutte queste manifestazioni sono semplicemente il rumore del mondo, è un altro modo per distrarsi, un altro modo per uscire fuori da quella dimensione angosciante di cui parlavamo poc'anzi. E va benissimo anche tentare di uscire fuori, ma non dobbiamo pensare che queste cose siano un rimedio. Se sono un sostegno ai medici va benissimo, se sono un modo per non pensarci va malissimo. Certo, anche davvero l'ultima domanda che le pongo. Certo, anche la scelta di fronte alla quale i medici talvolta sono costretti, chi salvare o su chi intervenire per primo. Questa della decisione che grava sulle loro spalle è un'altra dimensione alla quale non pensavamo di tornare mai più, perché pensavamo che la scienza avesse posti letto per tutti, terapia intensiva per tutti. Questa decisione tragica, che poi non è una decisione, è un dato di fatto, perché se io ho un solo respiratore o tre pazienti è chiaro che due sono a rischio di morte, ma questa non è una decisione, questa è la conseguenza rigorosa di una politica che da anni ha semplicemente non finanziato o ridotto i finanziamenti al nostro sistema sanitario e ha spostato cifre enormi dall'assistenza pubblica all'assistenza privata. Questi sono fatti, quindi i medici oggi si trovano in una condizione di decidere quello che è l'effetto di altre decisioni ben più pesanti, ben più criminose che quella dei ridotti finanziamenti alla sanità. La sanità pubblica, certo. Certo. Professore, la lascio alla cura del suo libro che, se non sbaglio, appunto uscirà tra qualche mese ed è dedicato a Martin Heidegger, il filosofo piuttosto pessimista. No, Heidegger era uno che aveva capito bene la differenza tra angoscia e paura, e anche se non conosceva Freud, i due si sono espressi nella stessa maniera, con le stesse parole, anche se non si conoscevano. E hanno definito l'angoscia quando non c'è nulla a cui agganciarsi, ed è questo nulla che è la dimensione angosciante. Heidegger non è un pessimista, Heidegger va sempre alla ricerca di una dimensione più radicale rispetto alla modalità con cui noi abbiamo sempre pensato. però il suo linguaggio è molto difficile, difficile anche per i tedeschi, e quindi finisce con essere un autore di cui si occupano esclusivamente i filosofi, anche se quello che va dicendo, soprattutto a proposito della tecnica, abbiamo risolto il mondo in un apparato tecnico e la tecnica non ha scopi, non ha scenario di salvezza, non dischiude orizzonte di senso, la tecnica funziona e ha ridotto gli uomini a funzionare nell'apparato tecnico. Ecco, queste considerazioni forse andrebbero anche illustrate anche a chi non si occupa di filosofia. Noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di dare un lampo di pensiero a chi questa mattina ci sta seguendo. Grazie professor Galimberti per essere stato con noi a Nessuno è Perfetta. Buona domenica. Grazie anche a lei. In viaggio con Tommy è il podcast di Radio 24 che racconta l'autismo attraverso il diario della mia ricerca, assieme a mio figlio Tommy, di oggetti straordinari per un'iniziativa straordinaria, l'asta per i cervelli ribelli. Il nostro racconto sonoro si arricchisce ora di 3 puntate speciali in onda la domenica alle 18 per 3 settimane. Saremo poi con voi in diretta a parlare di neurodiversità il 2 aprile, giornata internazionale della consapevolezza sull'autismo, per uno speciale Melog, ma anche con il film che Sky Arte ha dedicato all'avventura che ho vissuto assieme a Tommy e altre persone sicuramente fuori dall'ordinario. Nessuna è perfetta. In questi giorni di forzata residenza casalinga, la tentazione, lo sapete, la tentazione di restare in pigiama tutto il giorno c'è, e bisogna sconfiggerla. Una delle obbligatorietà che ci dobbiamo dare, uno dei principi coattivi che ci dobbiamo imporre, è proprio quello di non rimanere in pigiama tutto il giorno, ma anche di utilizzare al meglio il nostro tempo. E chi può darci un consiglio? Ma certamente la nostra Simona Salvini, che lo sapete, è spesso ospite di questa nostra Nessuno è Perfetta, e che sa come sfruttare ogni angolo della giornata per prendersi cura di sé. Buona domenica Simona Salvini, fondatrice e titolare di My Studio 75. Allora, prima di tutto, queste giornate chiuse in casa a Milano, come sono per te? Che cosa fai in tutto il giorno? Beh, dico la verità, i primissimi giorni noi da Milano viviamo questa situazione un pochino più tempo rispetto forse al resto dell'Italia. I primi giorni effettivamente devi un attimino riparametrarsi un pochettino, perché abituate come siamo a una vita frenetica dove i minuti non bastano mai, c'è un attimino di rimpostazione di tutto. Però poi bisogna, ho pensato da subito, ma anche per me stessa proprio, di fare di questa situazione difficile e penosa per tutti anche un'opportunità. Ci lamentiamo sempre che non abbiamo tempo, adesso finalmente ce l'abbiamo, abbiamo il tempo per occuparci di noi stesse, non avere tempo per fare la ginnastica, non avere il tempo di prenderci cura di noi, eccoci finalmente servite. Quindi occupiamo queste giornate in modo produttivo e facciamo così un regalo al nostro viso, al nostro corpo, anche al nostro spirito, perché occuparsi di noi stessi fa sempre bene sotto tutti gli aspetti. Allora Simona Salvini, cominciamo dalla routine giornaliera da mettere, da programmare per una settimana, dal lunedì al sabato. Che cosa si può fare in un'ora o in due ore ogni giorno per non ritrovarsi un corpo come dire appesantito e anche magari una pelle spenta, perché se non esci non ci sono i raggi solari a darti un po' di luminosità? Certo. Io suggerirei innanzitutto di darsi delle priorità e anche del rigore e di una certa disciplina. La mattina ci si alza, ci si rende presentabili, perché comunque se non si vive soli condividiamo gli spazi con qualcuno e non è assolutamente giusto dare un'immagine trasandata e trascurata anche se siamo in casa, e appunto darci delle priorità, seconda poi di come ciascuno è abituato può anche dividere la giornata in due parti, la mattina e il pomeriggio, se dove è possibile, dove uno può fare il telelavoro, lo faccia benissimo, e le altre ore che restano a disposizione dedicarsi a sé. Quindi questa può essere la ginnastica, può essere dei trattamenti. Cominciamo con il lunedì. Allora, facciamo una settimana, un'ora al giorno dedicato a noi stessi. Il lunedì cosa si comincia? Con cosa si comincia? Io personalmente posso dire di cosa faccio io. Io incomincio sempre con fare un buon movimento in casa, abbastanza sostenuto, e poi dopo seguito da tutto quello che può essere la cura di me. Divido la settimana, posso fare giorni alterni, faccio il viso, giorni alterni fare il corpo. Per il viso, per esempio? Quindi comincia con la ginnastica e poi? Poi dopo passiamo in bagno, ci facciamo una bella doccia, a quel punto ci preoccupiamo del nostro viso, ci facciamo una bella maschera, possiamo prendere anche queste ore a dedicarle anche ai nostri capelli, che trascuriamo abbastanza, vale a dire degli impacchi con delle maschere, anche mescolate all'olio e lasciate in posa, il tempo c'è, e poi dopo dicevamo prima delle maschere personalizzate, possiamo alternare delle maschere idratanti, delle maschere purificanti, fare un giorno il lunedì il trattamento al viso con una maschera purificante, il martedì il trattamento ai capelli sempre con la maschera e con l'olio, il mercoledì torniamo invece sul corpo. Io li farei anche insieme, il viso e il corpo possono anche andare insieme. Il mercoledì possiamo ricominciare a idratare molto bene la nostra pelle, che è importante, consideriamo che la maschera va lasciata in posa almeno 20 minuti, quindi il tempo ce ne vuole. Poi focalizzarci sulle singole esigenze di ciascuno, perché magari non tutti hanno bisogno di purificare o non tutti hanno bisogno di rassodare, quindi capire bene quali sono le nostre esigenze e giocare su quei due fattori, diciamo, più evidenti, e alternarli un giorno con l'altro, così diventiamo veramente efficaci, selettivi e rigorosi. Per quanto riguarda il corpo, le più pigre, diciamo così, possono anche dedicarsi solamente alla posa di una crema mattina e sera, anche mirata su degli inestetismi, e le più invece volenterose possono alternare un giorno sì e un giorno no con degli impacchi di alga, anche banalmente con dei bagni di acqua salata, che tonificano tanto, purificano tanto e rilassano tanto e completano i trattamenti del corpo, alternandoli. L'idea è alternarli. Simona Salvini, perché psicologicamente fa bene in queste settimane di clausura prendersi cura del proprio corpo? Sicuramente fa bene per non ritrovarsi poi a maggio in condizioni che non ci farebbero felici, non ci farebbero contente, ma poi fa bene anche per prendersi semplicemente un'ora chiusi in bagno. Oggi che adesso, insomma, in famiglia si sta molto insieme, no? Quindi forse uno spazio dedicato alla cura di sé in bagno per mezz'ora da soli aiuta anche a mettere un pochino di barriere, no? tra le famiglie costrette alla coabitazione intensa. Certo, no, assolutamente. Io dico che sicuramente fa bene al corpo, ma soprattutto fa bene allo spirito, come dicevo all'inizio, perché ti fa sentire curata, sai di aver fatto delle cose per te, ti fa sentire veramente meglio nella tua pelle, e poi comunque offri anche a te stessa e alle persone con cui condividi lo spazio l'idea di un amore, no? per se stessi, che trasmetti questo. E poi possiamo anche concederci un piccolo tocco di vanità, non è che perché siamo chiuse in casa non dobbiamo metterci un filo di rassetto, fa bene a noi vederci bene, e anche offrire una nostra presenza curata non dico imbellettata come se dovesse andare a cantare la Tosca, ma curata, amata. Ecco, secondo me resta comunque un bel messaggio, anche perché non dobbiamo dimenticarci che questo periodo triste passerà, ma l'immagine che noi abbiamo dato di noi stessi resta. Io ricordo mia nonna che mi diceva sempre che la troppa confidenza toglie la riverenza, non dimentichiamoci questo. Simona Salvini, parole, parole sagge, quindi anche un paio di orecchini messi in casa, dice, ma non esci, che importa, certo. Comunque mi vedono i miei familiari, esatto. e poi anche un messaggio che diamo ai nostri figli, no? Non sfondiamo il divano restando in pigiama, no, ci si veste e quando si va a tavola vestiti, eh? Grazie. Anche profumarci, anche non profumarci, è male. Sì. Grazie Simona Salvini, fondatrice titolare di My Studio 75, che ci ha aiutato a capire come prenderci cura di noi in questi giorni di forzata clausura. Grazie, buona domenica. A te buona domenica, ciao. Nessuna è perfetta. Ultima parte della nostra puntata da casa di Nessuna è perfetta, e tra le tante cose che molti di voi ascoltatori e ascoltatrici si sono riscoperti a fare è i compiti con i figli, perché i ragazzi non vanno a scuola e che facciano la prima elementare o l'ultimo anno di liceo o di istituto tecnico magari chiedono un aiuto ai genitori, ma soprattutto sono i genitori che assistono, chi preoccupato, chi meno, al fatto che per settimane i loro figli non avranno una presenza scolastica, e dunque tutto ciò suscita una serie di problematiche piuttosto rilevanti nella vita delle famiglie. Noi però questa domenica vorremmo vederla anche dall'altro lato. Com'è la vita di un insegnante ora che a scuola non ci si va? E dunque benvenuta la professoressa Dina Pescosolido, docente al liceo Romano Caetani appunto di Roma, docente di lettere se non sbaglio, e docente da casa adesso. Com'è, professoressa? Com'è questa nuova dimensione? Buongiorno a tutti, e grazie Maria per questa opportunità. La dimensione del lavoro da casa per un docente è difficile, molto difficile. Prima di tutto perché come tutti nessuno è in vacanza, siamo a casa per un'emergenza, e purtroppo abbiamo la nostra emergenza personale e familiare da gestire, e quindi siamo spesso preoccupati, angosciati, e quello che è difficile è recuperare la serenità con cui doverosamente dobbiamo confrontarci con i nostri alunni. Quindi in qualunque modo noi ci mettiamo in contatto con i ragazzi, dobbiamo assolutamente avere tutta la nostra esclusiva considerazione per loro, quindi dobbiamo essere sereni, dare sicurezza, infondere fiducia e quindi dimenticare le nostre ansie personali. E professoressa, in questo momento è difficile. È difficile, certo. Professoressa, sì. Come vi siete organizzati al liceo Caetani di Roma? Avete video lezioni? Avete video call? I vostri alunni si collegano in orari precisi della giornata? Ci faccia capire com'è stata, che ne so, la giornata, prendo un giorno a casa, di giovedì o di mercoledì scorso. Sì, intanto noi abbiamo avuto immediatamente una risposta spontanea come docenti di fronte anche a, cioè alla percezione che i ragazzi e i genitori si aspettassero qualcosa da noi. E spontaneamente abbiamo iniziato a fare gruppi WhatsApp, collegamenti tramite la posta elettronica, cioè comunicazioni tramite la posta elettronica, e siamo partiti per avere un contatto con i ragazzi, soprattutto per far sentire loro che la scuola è presente, che la scuola non è chiusa. In realtà le scuole non sono chiuse, i nostri dirigenti sono a scuola e anche nel personale di segreteria c'è un contingente minimo che è presente a scuola e anche tra i collaboratori scolastici. Quindi abbiamo iniziato subito, però noi al Caetani abbiamo una dirigenza molto attiva. Il nostro dirigente immediatamente si è attivato per agevolarci, diciamo, in questo compito. In realtà è difficilissimo tuttora riuscire ad utilizzare le piattaforme che abbiamo a disposizione, di cui possiamo usufruire, però il dirigente si è attivato immediatamente per metterle a nostra disposizione. Ora, noi siamo un corpo docente anziano, i giovani, i nostri colleghi giovani hanno immediatamente attivato gruppi Skype e collegamenti anche in videoconferenza. Per noi docenti più anziani è molto difficile, anche perché noi non siamo formati all'uso delle nuove tecnologie per fare lezione a distanza. In effetti noi abbiamo una sezione che fa didattica digitale, ma tutte le altre sezioni fanno scuola in presenza, come è sempre stato. Questa è una situazione del tutto nuova. Il vostro è un liceo scientifico a indirizzo Liceo di scienze umane, sì. Liceo di scienze umane tradizionale, diciamo, poi l'indirizzo socio-economico e abbiamo anche il liceo linguistico. Quindi qualcuno era già abituato, ecco, a utilizzare le nuove tecnologie per la didattica, ma qualcuno no, assolutamente. Insomma, stiamo avendo delle difficoltà, però ripeto, c'è un gruppo molto attivo di docenti, di colleghi esperti che ci stanno mettendo, hanno predisposto, perché ormai è un bel po' di giorni che siamo a casa, sono state predisposte delle piattaforme attraverso cui noi possiamo entrare in contatto con i ragazzi. Ecco, lei ha già avuto modo di assegnare dei compiti ai suoi alunni? Sì, guardi, io mi sto muovendo in questa direzione. Dunque, innanzitutto ci vuole, secondo me, buon senso ed equilibrio, perché non tutte le classi sono uguali. Dunque, io faccio l'esempio delle mie classi. Allora, in quinta, dove bene o male ci saranno in un modo o nell'altro i ragazzi di quinta affronteranno un esame di Stato e quindi con loro mi sento anche di curare particolarmente i contenuti e lo svolgimento del programma. Devo dire che con loro sto utilizzando audio messaggi su WhatsApp e loro stessi mi hanno chiesto di continuare così come avevamo iniziato proprio dai primi giorni e non fare il collegamento Skype, perché loro si trovano benissimo così, hanno praticamente le mie lezioni registrate sul loro telefono e le riascoltano quando vogliono, interrompendo quando hanno bisogno di consultare testi, e mi dicono che si trovano bene in questa modalità. Con i ragazzi di seconda il discorso è un po' diverso, prima di tutto perché sono più piccoli e hanno bisogno di vedere. Con loro infatti sto attivando una piattaforma, ma poi quello che penso, per i ragazzi più piccoli è che al di là dei contenuti sia molto importante far arrivare dei messaggi. Dunque, noi quest'anno abbiamo come novità l'insegnamento dell'educazione civica. Ecco, secondo me non c'è una lezione più grande di educazione civica che questa che stiamo vivendo in questo momento. Certo, perché allora, ai ragazzi, impone di sì. seguire delle regole e abbiamo sì, anche il tempo sì. di approfondire un po' di sì. Appunto di educazione civica dimenticata o rimossa. Sì, perché i ragazzi devono assolutamente ricevere questo messaggio che intanto dobbiamo tutti impegnarci nel nostro piccolo a fare il nostro dovere, e questo è quello che fa crescere, è il primo messaggio che ho mandato quando abbiamo attivato il gruppo WhatsApp. Ognuno di noi deve fare il suo, e questa è la questo porta alla crescita della società, e in questo momento di emergenza a maggior ragione ciascuno deve fare il suo. Ma poi i discorsi vanno approfonditi anche per esempio nel senso del rispetto delle regole. Mai come in questo momento noi dobbiamo rispettare le regole, perché rispettare le regole significa rispettarsi l'un l'altro. Dobbiamo rispettare l'istituzione, perché il nostro unico punto di riferimento in questo momento è l'istituzione. Quindi è veramente una grossa occasione per dare ai ragazzi un messaggio di vita, un messaggio che insegni loro ad essere veramente cittadini consapevoli, al di là di un po' di retorica che purtroppo di solito si fa quando si parla di questi argomenti. In questa situazione la retorica non esiste, abbiamo una realtà durissima, difficile da affrontare. Ognuno si deve rendere conto che facendo il proprio dovere si fa una parte importante. Professoressa, insomma, mi scusi, mi sì. metto nei panni dei genitori che ci stanno ascoltando e che hanno in testa due cose, no? Se fossero qui con lei gliele chiederebbero, e tanti genitori gliele chiedono, immagino. Secondo la vostra esperienza, lei appunto è una professoressa con un'esperienza quarantennale, questo buco no, di formazione. Lezioni, perché per esempio sì. appunto il programma per quanto gli studenti dell'ultimo anno che hanno l'esame di maturità appunto sì. si sforzino, ma per gli altri sì. i buchi, i crateri nel portare a termine il programma resteranno. Ecco, che cosa si può fare a casa, che cosa possono fare a casa i genitori per aiutare a ridimensionare questi buchi nella formazione? Sì. Prima domanda. Sì, allora, per quanto riguarda i contenuti essenziali, noi stiamo andando avanti, e quindi è sufficiente che i genitori seguano i figli nello svolgimento dei compiti che vengono assegnati. Io so che nella mia classe vengono assegnati esercizi di inglese, esercizi di matematica, io ho mandato delle schede sintetiche di storia in modo che possano fissare i concetti, e quindi quello che riguarda i contenuti essenziali sono garantiti. Quello che i genitori possono fare è magari evitare che i ragazzi approfittino della situazione particolare per mandare per esempio esercizi tutti uguali. Certo, perché non c'è lo sforzo, se li passano l'uno con gli altri, allora lì i genitori sì, devono far capire okay. che beh, fare sì, questo sì. è un danno alla propria formazione. Uno dei punti sì. su cui credo i genitori possono insistere è che non conoscere le cose non è tanto come dire, un danno perché poi prendi un brutto voto, o copiare gli esercizi degli altri non è tanto un danno perché non ti metti in gioco te stesso, ma è un danno sul lungo periodo, perché comunque il lavoro nei prossimi 10, 20, 30 anni privilegerà solo le persone che sono capaci di raccogliere le sfide, che si impegnano direttamente. Per tutti gli altri non ci sarà sufficiente lavoro, e quindi è una questione, come dire, di abituarsi a impegnarsi sin da adesso e non copiare, perché copiare non serve veramente a nulla. Certo. Certo, la preparazione è quella per cui si lavora, e non svoltare l'interrogazione, come dicono loro, non il voto al momento, ma la preparazione, la formazione. Quindi in questo i genitori possono aiutarci moltissimo, perché rendere i ragazzi consapevoli di questo significa formarli, insomma, aiutare noi a formarli come certo. Professoressa, ho l'ultima domanda per lei, che credo sia la domanda delle domande, ma se si andrà avanti così fino a maggio questo anno scolastico potrà essere considerato valido? Ora, se dovesse proseguire fino a maggio, come insomma pare che sia, almeno da notizie così, non ufficiali, però c'è questa possibilità, allora forse noi aspettiamo una nuova, aspettiamo nuove disposizioni, ma io sono convinta che l'anno non sarà invalidato assolutamente, non è possibile, magari faremo un periodo di recupero all'inizio del prossimo anno scolastico, questo si può fare, il tempo c'è. Grazie alla professoressa Dina Pescosolido del Liceo Caetani di Roma. Io intanto ringrazio anche tutti voi che ci avete seguito in questo esperimento di Nessuna è Perfetta, in versione diversa dallo studio dal quale normalmente trasmettiamo, quello di Piazza Indipendenza a Roma. E che dirvi? Ci sentiamo lunedì, come sempre, dalle 8:20 in poi, con Simone Spezia, 24 mattino, per tutta la settimana. E facciamo fronte tutti insieme. D'altra parte, ci siamo fatti compagnia per 5 anni e ci faremo compagnia anche ai tempi del coronavirus. Buona domenica, ciao.